peanuts. Salt peanuts, salt peanuts. Salt peanuts, salt peanuts. Salt peanuts, salt peanuts. Salt peanuts. Jazz on megahertz. Salt peanuts, salt peanuts. Salt peanuts, salt peanuts. Alla console Sandro e Alfredo. Salve a tutti, sono Sandro Veroni da Salpinaz. Oggi, tanto per cambiare, tre dischi, tre novità che hanno in qualche modo un filo conduttore. Sono tre musicisti che si trovano, come dire, nel bisogno di cercare anche strade nuove. Sono di varia fama, diciamo, cominciando dalla una delle protagoniste della scena contemporanea, Patricia Brennan, che è uscita con il suo ultimo lavoro. Molto attiva questa vibrafonista, compositrice, musicista tutto tondo, decisamente un talento notevolissimo, e è uscito il suo nuovo lavoro, nuovo perché è uscito l'anno scorso, una delle cose più belle degli ultimi anni per una formazione di piccola orchestra, e quest'anno comunque direi che esce con un qualche cosa che ricerca comunque una forma compositiva nuova, con soprattutto basato su una timbrica e su una costruzione armonica, diciamo, non consueta. Il disco naturalmente è uscito per la Pyroclastic, sempre questa etichetta del Chris Davis, che è un'etichetta che raccoglie un po' tutti i nuovi talenti che ricercano queste strade di confine tra musica contemporanea e jazz. Il disco è intitolato Of the Near and the Far, e c'è una ricca schiera di musicisti di prim'ordine che fanno parte di questa formazione. Intorno alla, a Patricia Brennan come leader e compositrice, e naturalmente suona il vibrafono con anche la marimba elettronica, e poi Miles Okazaki alla chitarra, Sylvie Courvoisier al pianoforte, che sempre più in sintonia con questo tipo di musica. Diciamo che Sylvie Courvoisier, tra l'altro, è una pianista che è uscita alla ribalta già molti anni fa e attualmente sta vivendo un momento di particolare attività, sia come sideman che come leader di proprie formazioni. Poi Kim Cass, questo talento straordinario al contrabbasso, alla batteria, alle percussioni, un leader di primo livello come John Hollenbach, che tra l'altro anche è in grado di dare anche indicazioni ben precise su quanto riguarda la costruzione orchestrale. Poi all'elettronica Arcutui Rei, questo francamente non lo conosco. Poi c'è anche un quartetto d'archi, diciamo. Un quartetto d'archi composto da due violini, una viola e un violoncello. Quindi classico quartetto d'archi. Ascoltiamo due delle composizioni tratte da questo bel... Thank you. Questa era Patricia Brennan con The Near and the Far, e direi che è una musica decisamente pregevole, sia anche per una certa semplicità espositiva, ma una complessità nella costruzione delle queste geometrie anche melodiche, poi, che indubbiamente affascina. Qui appunto anche la timbrica è particolare, perché non ci sono per esempio fiati, il pianoforte, vibrafono e chitarra, il resto poi sono c'è il quartetto d'archi, insomma. E il concetto del quartetto d'archi, o comunque dell'accompagnamento con o perlomeno dell'incontro con quartetto o quintetto d'archi, anche nel prossimo De Vinay, Binney è un musicista che io ho sempre molto apprezzato da tanti anni. Ricordo che la prima volta che lo sentissi eravamo alla fine degli anni Ottanta, quindi veramente ormai parecchi anni fa. Poi ha avuto indubbiamente una carriera estremamente intensa. E negli ultimi anni però è come se avesse esaurito la sua voglia di continuare sugli stessi schemi, diciamo, sia delle composizioni che anche delle piccole formazioni di jazz, e cerca strade nuove, cerca sicuramente strade nuove. Quest'anno sono usciti due dischi, uno a mio avviso non riuscito, per cui non ne ho neanche parlato, e l'altro è appunto questo lavoro, che vede una formazione strana, perché sono più formazioni, con un quintetto d'archi e poi con un quartetto, e sono vari musicisti che si alternano, insomma, in varie formazioni. Poi gli accompagnatori sono al pianoforte John Escrit, Garth Stevenson al contrabbasso, poi alla batteria vediamo una vecchia Kenny Wollesen, vecchio leone della batteria. Ma comunque è occasionale, diciamo, questa presenza, ma la sensazione è che lui abbia lavorato molto sulla composizione, sull'arrangiamento, sulla costruzione di questi percorsi e di con sonorità diverse da quelle frequentate, diciamo, da lui tradizionalmente. Il disco è Grains of Light, Composition for Various Ensemble, appunto, fa parte del titolo stesso. È uscito sempre per l'etichetta con la quale lui ha scritto, non so bene se è una sua etichetta direttamente oppure un'etichetta di nicchia, la Mythology, con la quale però ha molti anni escono dei suoi lavori. Da questo disco, un bel disco a mio avviso, che sicuramente lo fa notare di nuovo come un musicista interessante, che cerca strade diverse, che non ha paura anche di prendersi dei rischi. E ascolteremo tre brani presi appunto da questo lavoro.

Questo era Dave Binney, Giant of Light, Composition for Various Ensemble. E quindi sì, un lavoro che vede, come dire, un utilizzo molto funzionale degli archi e a mio avviso anche piuttosto ben riuscito. E poi naturalmente si sente sempre questa come dire, sequenza di accordi che sono tipici della musica di Dave Binney e sulle quali evidentemente anche si trova molto a suo agio anche nel costruire a soli e nel sviluppare i propri temi. Passando ad un altro personaggio, in questo caso direi decisamente meno conosciuta, si tratta di una giovane sassofonista brasiliana emigrata poi a New York per studiare, approfondire sia l'uso del sassofono, ma soprattutto quello che le interessava fare e che le interessa fare è la composizione e arrangiamento, quindi la guida orchestrale. E questo c'è stato un incontro con un vecchio leone adesso ormai anche dell'insegnamento, però un vecchio leone della scena jazzistica, si tratta di Bob Moses che ha ormai si sta avviando verso gli 80 anni e ha cominciato con Roland Kirk, ha attraversato un po' tutta la storia del jazz dal 64, lui le prime registrazioni era molto giovane e con Roland Kirk, poi soprattutto con Gary Barton al vibrafono e col quale è stato per diverso tempo, poi vari altri, praticamente un po' tutti i musicisti della scena newyorkese hanno suonato con lui, lui ha partecipato in varie formazioni. Ecco, verso la fine degli anni 90 si era un po' defilato, intanto pochissime le occasioni di vederlo come leader di proprie formazioni e poi anche non certo frequenti anche le partecipazioni ad altri gruppi e soprattutto dedicato appunto all'insegnamento. Attraverso questo tipo di attività è rimasto sbalordito, da quanto almeno lui dichiara, dalle capacità e dal talento di questa giovane compositrice sassofonista con radici sudamericane che appunto Gaia Wilmer, che appunto ha dimostrato di avere grandi frecce al proprio arco. Quindi hanno costruito un disco insieme dove poi Gaia Wilmer in sostanza compone tutti i brani e Bob Moses la aiuta collabora diciamo nell'arrangiamento. E riprende tra l'altro un tema che è caro a Bob Moses. Il disco è intitolato Dancing with Elephants. Negli anni '80 uno dei lavori più importanti di Bob Moses era tra l'altro Quando gli elefanti sognano. Questa era quindi evidentemente il concetto dell'elefante come elemento scatenante, onirico scatenante, diciamo che è ben presente. Un bel disco indubbiamente, dove viene fuori anche un estro particolare. Guy Wilmer cerca le strade per avvicinarsi un po' a tutta, percorrere un po' tutta la storia anche di un certo jazz, naturalmente non delle radici più antiche, è giovane quindi è anche affascinata, probabilmente nella propria giovinezza ha avuto a che fare con una formazione che legava il concetto di jazz al funky o a espressioni più di questo tipo, però è interessante ed è decisamente brava sia come sassofonista che anche come costruzione orchestrale. Ascoltiamo tre brani presi da questo Dancing with Elephant. Thank you. Bye. Questa era l'orchestra di Gaia Wilmer con Bob Moses, questo lavoro condiviso, Dancing with Elephants, e l'orchestra poi è formata anche da alcuni personaggi più conosciuti. Normalmente sì, non è che siano dei nomi particolarmente conosciuti, però Leo Genovese alle tastiere, ad esempio, oppure George Garzone al sax tenore, e poi si aggiungono molti altri. Però ecco, è una piccola orchestra, soprattutto formata da sassofoni, flauto, quindi questo fa la parte come della banda, insomma. Il disco è uscito, diciamo, quest'anno per la Sunnyside Records ed è stato segnalato sicuramente come una delle cose più interessanti uscite quest'anno. Era anche l'ultimo ascolto. Vi ricordo che l'intera trasmissione e le indicazioni discografiche le potete trovare nel nostro sito Radio Città Fujiko alla sezione Musica Playlist.